America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'indice Dow Jones più 1,27%, siamo tornati stabilmente sopra quota 11.000, dunque la paura che si potesse sfondare all'interno di quota 10.000, qualche soglia di preoccupazione, è per ora svanita. Cosa è successo? Beh, una gran quantità di cose, ma soprattutto l'Europa che fa notizia in positivo e in negativo. Moody's che dà un brutto voto alle banche francesi, Francia e Germania che si mettono d'accordo per sostenere la Grecia, dunque è l'Europa che in qualche modo sta dominando. C'è stata un po' di preoccupazione per esempio per le banche spagnole che non riuscivano a trovare credito sul mercato in dollari, sono rivolte alla Banca Centrale Europea, i dollari per le banche europee sembra non siano molto disponibili e dunque ci si rifornisce appunto dalla BCE. Anche questo è un elemento di preoccupazione perché dà l'idea che possa esserci una piccola crisi di liquidità. Un altro elemento di preoccupazione in America è che una gran parte, la metà addirittura, di tutti gli IPOs, cioè gli initial public offerings, i nuovi collocamenti in borsa di titoli che diventano public company, oggi sono al di sotto del loro prezzo di collocamento. Diciamo la metà dei titoli che sono stati collocati nei primi 6 mesi di quest'anno. Certo, non è un buon segnale e contribuisce ad aumentare quella tensione di cui vi parlavo. In tutto questo ci sono polemiche: come mai Moody's attacca in questo momento le banche francesi? Perché il presidente Obama dice che colpa di questa crisi che c'è stata anche ovviamente a livello mondiale, l'America certo non sta molto meglio sul piano della crescita e dell'occupazione, dipende dall'Europa? Perché il ministro Geithner sarà in Polonia per partecipare per la prima volta nella storia all'incontro dei ministri finanziari europei? Ecco, ho visto un po' di reazioni sui giornali italiani, su internet, sui blog, e noto che c'è un minimo di atteggiamento negativo nei confronti dell'America, quasi che l'America volesse strumentalizzare una situazione a suo favore, quasi che l'America volesse accompagnare questa difficoltà dell'euro perché preferisce avere il dollaro come unica moneta regnante. Bene, sono molte fantasie, secondo me. Nel momento in cui voi leggerete qualunque dichiarazione sulle economia da parte del presidente americano, di un suo ministro, soprattutto Geithner, ricordatevi che sono dettate soprattutto da considerazioni di politica interna. Siamo ormai nel pieno della campagna elettorale e dunque un'amministrazione nervosa, un'amministrazione che sa di essere sotto assedio, preoccupata e che reagisce come può. Purtroppo, ignorando il fatto, e questo certamente è molto negativo, che le dichiarazioni di un presidente degli Stati Uniti o di un segretario al tesoro americano, lasciano il segno sul mercato. Però, ripeto, la determinante politica interna deve servire per depurare e interpretare molte delle dichiarazioni che vengono da Washington. Vi dicevo, difficoltà di Obama nel contesto del dibattito politico. Una grossa difficoltà e un grosso problema l'ho avuto l'altra sera. It is people like me who got off their couch and said I'm as mad as hell and I'm not going to take it anymore. E Robert Turner che parlava, ha appena vinto il seggio che fu di Anthony Weiner per il congresso, per la Camera degli Stati Uniti d'America in rappresentanza della città di New York, o meglio di uno dei quartieri più importanti, dei distretti più importanti della città di New York. Perché questa notizia è stato scalpore? Intanto perché Robert Turner, ve lo devo dire, è un personaggio. Questo signore ha 70 anni, nato nel 41, è un pensionato, aveva lavorato come manager di una società che opera la gestione delle trasmissioni televisioni via cavo e in pensione decise che forse era giunto il momento di entrare in politica. Parlò con la moglie, le disse: ma insomma, tu che pensi di questa mia idea? Io voglio darmi da fare, voglio fare qualche cosa. E la moglie, una infermiera vicina anche lei alla pensione, si è entusiasmata ed è diventata la sua più forte sostenitrice. Ebbene, venendo dal nulla, senza un background politico, senza avere gli addentellati che uno immagina servano, senza avere i fondi, perché non è un uomo ricco il signor Robert Turner, ha montato una campagna elettorale che ha sconfitto David Weprin, che era il candidato democratico di una famiglia importante che aveva gli addentellati politici, i collegamenti, tutto quello che non aveva Robert Turner. Ebbene, il signor Turner è a questo punto fuori dal divano, ha vinto col 54% contro il 46% del suo sfidante e partirà girerà per Washington. Mr. Smith Goes to Washington era un film straordinario e bellissimo. Abbiamo Mr. Turner Goes to Washington, è una notizia che ha entusiasmato, galvanizzato, mobilitato i repubblicani, soprattutto i repubblicani del Tea Party, perché è il personaggio tipico, secondo loro, che può aiutare il paese a uscire da questa crisi in cui si trova. Un uomo fuori dai soliti giri, un uomo pronto a lavorare, entusiasta e soprattutto guidato dal buon senso. Barack Obama è preoccupato? Beh, devo dire che questo voto conferma che forse alla Casa Bianca non si passano delle notti tranquille pensando al 2012. America 24. Da una presidenza all'altra, da un'epoca all'altra, è uscito finalmente il libro di Jackie Kennedy, Conversazioni con Arthur Schlesinger, su altre conversazioni, le conversazioni storiche con il presidente Kennedy. I was always a liability to him, but everyone thought I was a snob. Ve ne avevo parlato qualche giorno fa, avevamo ascoltato il senatore Mario D'Urso, che conosceva molto bene i Kennedy, aveva passato delle vacanze con loro, soprattutto con Jacqueline Kennedy quando fu a Conca dei Marini e sulla costa amalfitana a Ravello. Ecco, la voce che avete ascoltato è la voce di Jacqueline Kennedy, perché questo libro ha anche dei nastri con le sue dichiarazioni ad Arthur Schlesinger. Sentite questa voce, l'ascolterete ancora dopo, ma è una voce molto sussurrata, una voce molto intimista. E in questo ricordo dice: sono sempre stata un peso per lui. Tutti pensavano che fosse una snob di Newport, dai capelli cotonati, che vestiva abiti francesi, odiava la politica, e lui si arrabbiava molto per questo, e così gli dicevo: ma Jack, mi dispiace di essere un tale disastro. Ecco, emerge un quadro, devo dire, diverso da quello che ci saremmo aspettati e, secondo lo storico Michael Beckloss, diverso da quella che era la realtà. Non è vero che Jackie Kennedy fosse così sottomessa o così preoccupata di essere un disastro nei confronti del marito, e Jack ovviamente, se si arrabbiava, non si arrabbiava con Jackie, ma si arrabbiava con coloro che pensavano questo. E dunque emerge un quadro, secondo me, contrastante. Il libro è uscito perché ci sarà l'anno prossimo il 50° anniversario della presidenza di Jack Kennedy, e dunque vorrebbe dare del materiale agli storici, che sicuramente staranno lavorando per preparare qualcosa di interessante. Sentiamo un'altra sua dichiarazione. Then we got in the White House, all the things that I'd always done suddenly became wonderful. And I was so happy for Jack that he could be proud of me then. Ecco, qui Jackie Kennedy racconta dell'ingresso alla Casa Bianca. Quando siamo arrivati alla Casa Bianca, tutte le cose che avevo sempre fatto improvvisamente divennero meravigliose, ed io ero così felice per Jack, perché poteva finalmente essere orgoglioso di me. Questo lo rendeva felice e mi rendeva felice, e quindi quelli furono i nostri anni felici. Sappiamo di nuovo che ci furono anche degli alti e bassi, sappiamo quel che capitò con Marilyn Monroe, sappiamo quanto Jackie abbia sofferto, ma la sua figura di First Lady impeccabile evidentemente la vuole difendere fino in fondo, anche a 17 anni dalla sua morte. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il regista, sceneggiatore David Lynch ha rivelato i dettagli del suo primo disco solista. Si chiamerà Crazy Clown Time, uscirà l'8 novembre. Good Day Today di David Lynch. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.